Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma nel quale, come ci ha detto Ambra Angiolini qualche domenica fa, non abbiamo tatuaggi, ma se dovessimo proprio tatuarci qualcosa ci tatueremmo questo: nessuna è perfetta, e ci va bene così, ci prendono per come siamo e soprattutto ci prendono senza farci sentire in colpa se non siamo perfette in ogni momento della nostra giornata, tantomeno in ogni momento della nostra domenica. La nostra micro battaglia contro il multitasking è qualcosa che non smetteremo di fare, così come non smettiamo di cercare di alleggerirci la vita, occupandoci spesso, quasi sempre, dei temi legati al lavoro, con le gratificazioni e le frustrazioni che dal lavoro vengono. Spesso, lo sapete, abbiamo anche i consigli dei nostri coach che si alternano domenica dopo domenica, ma questa domenica invece vorremmo concentrarci sull'essere noi i coach di noi stessi. Come offrirci valore. Un valore che è ritagliato su misura di noi stessi. Nessuno ci conosce meglio di quanto ci possiamo conoscere. Ma è davvero così? Davvero ci conosciamo? Allora, cerchiamo questa domenica, in cui la puntata di Nessuna Perfetta è dedicata all'essere noi coach di noi stessi, cerchiamo di capire quanto ci conosciamo e come possiamo farci del bene in tanti differenti momenti della vita, farci del bene piacendoci esteticamente di più o conoscendoci di più attraverso, per esempio, lo yoga, o farci del bene anche lavorando sui momenti di relax, come andare al cinema, andare a teatro. E a proposito di teatro, il nostro agente provocatore di questa domenica non può che essere Joelle Dix, impegnato nelle prove di Fuga da Via Pigafetta, uno spettacolo che lo vede regista, uno spettacolo con Paolo Händel, però lo vedremo a teatro tra un po', mentre tra breve sarà a teatro con Il malato immaginario. Allora, a proposito di malattie e di malati, Joelle Dix, noi questa domenica... Buongiorno a tutti intanto. Buona domenica a te. Noi questa domenica stiamo ragionando intorno alla possibilità di essere coach di se stessi, cioè cercare di prendere il meglio da tutto quello che ci può aiutare, che possa essere lo yoga o fare una dieta, sentirci più belli persino, che ne so, con la meditazione. Il malato immaginario è esattamente il contrario, è il paradigma dell'uomo che si cerca mille problemi per stare male. Sì, o forse per difendersi dalla fatica del vivere, per difendersi dal fatto che la vita è complicata. A volte la malattia, più o meno gonfiata, più o meno immaginaria, è una bella corazza. Infatti io conosco molte persone che preferiscono i medici, che gli dicono che hanno qualcosa. Gli ipocondriaci, i professionisti. Il grande Bruno Bettelheim diceva che noi andiamo dal medico non per avere risposte, ma per cercare conferme. E io, per esempio, amo dei medici che mi dicono che non ho niente, perché a me la malattia non mi piace né vera né presunta, non mi difende, non mi dà forza. Io preferisco trovare le forze dalla salute, insomma. Qual è il sistema? Un attore a teatro ha molte possibilità, no, di sdoppiarsi, di vivere tante altre vite, e forse è coach di se stesso attraverso la recitazione, attraverso il suo lavoro teatrale. Però è anche vero che molti attori, poi smessi i panni della recita, hanno depressioni, ma, celebre, no? La depressione di Gassman. Nel caso tuo, tu come sei coach di te stesso? Cosa fai per stare meglio con te? Ma dunque, intanto va detto che in particolare gli attori comici, e probabilmente Gassman ne soffrì proprio perché lui aveva un grande lato comico, famoso, che aveva sviluppato, oltre a essere un grande attore anche drammatico, però forse la parte che gli piaceva di più era quella. I comici in realtà hanno molta dimestichezza col dolore, sembra paradossale dirlo, ma tutto ciò che ispira il comico è tutto ciò che quello che va storto. Per cui in fondo, siccome a forza di maneggiare, di parlare, di frequentare le cose che vanno male, le cose brutte, finisce che ti tiri un po' giù, insomma. Infatti è ben noto, è un luogo comune, ma come tutti i luoghi comuni piuttosto fondato che i comici siano un po' malinconici, per cui io diciamo che mi rigenero quando faccio fuori dalla scena delle cose che mi appartengono molto, piccole cose, mi curo un po' anche di me. Per esempio, una delle cose che mi piace di più è non fare niente. Sì. È una delle cose secondo me magnifiche. Paola Cortellesi, l'altra poche settimane fa qui a Nessuna è Perfetta, ci ha rivelato che per lei curarsi è nuotare in piscina a lungo, perché in piscina non ti raggiunge nessuno, non ti possono telefonare, e puoi lasciare la mente correre. Il tuo concetto della mente che corre è non fare assolutamente niente, che è molto sano anche. Sì, non fare niente, lasciare invece che la mente corra, perché però che corra un po' in libertà, nel senso anche facendo associazioni mentali libere, mentre quando sei più concentrato sulle tue attività lavori su qualcosa di più preciso, e questo capita ancora dei lavori ripetitivi. Potersi rilassare, comunque approvo la piscina, è l'unica parte sportiva che ho e ce l'ho sempre avuta fin da ragazzino. Abbiamo scoperto un altro nuotatore. Quindi... è veramente una cosa che mi rilassa tantissimo, il nuoto, sì. C'è mai stato un momento in cui hai detto no, da solo non ce la posso fare, e quindi hai avuto bisogno tu di un coach? Beh, oddio, dal punto di vista professionale in realtà è molto importante. Il mestiere creativo, diciamo, in generale, è un mestiere che ha tanto bisogno di confronto, cioè uno poi alla fine sa che se la gioca lui, poi ha un ego forte, quindi insomma certo. Il rapporto con se stessi non è in dubbio, però il confronto con qualcuno di più bravo, di più esperto, che ti guarda magari da fuori, ti salva la vita. E questo secondo me è utile farlo. Io ho qualcuno sempre, a seconda dei momenti della vita, possono anche essere delle persone magari anche non tanto legate, anzi meglio se non sei molto legato, tanto è vero che gli terapisti si dice che non dovrebbero essere... Persone che hanno con te nessun tipo di relazione di conoscenza. Io sono un grande difensore e sostenitore delle terapie, cioè penso che la gente farebbe bene andare in generale in analisi, senza che abbia dei disturbi particolari, andare in analisi, andare a parlare di sé, parlare con qualcuno che ascolta senza troppo trasporto, che ti costringe con quel tipo di ascolto che a volte sembra, dice vabbè, ma questo che ha fatto è stato un'ora zitto, però intanto io ho dovuto riempire quel vuoto, quel silenzio, e ho cominciato a scavare dentro di me. Andare, è molto utile quello. Andare a teatro, forse ancor più che andare al cinema, è volersi bene, è in qualche modo un contributo che diamo a noi stessi, che ci fa star bene. E ovviamente chi fa l'attore non può che essere d'accordo con me, però io credo che ci sia uno scambio, no, tra chi recita e chi ha il piacere di scegliere quel particolare spettacolo. Non sempre, magari talvolta la gente esce insoddisfatta, ma tu percepisci quando a teatro dai ai tuoi spettatori qualcosa? Beh, sì, certo, certo che lo percepisco come. Purtroppo, per come sono fatto io, ma credo che gli attori generalmente siano così, se hanno un minimo di... percepisco più quello che non sono riuscito a dare, cioè di solito c'è sempre la parte vuota, il famoso bicchiere mezzo vuoto, ma in ogni caso anche quel tipo di verifica è utile per farti crescere. Beh, è bello che tu dica, insomma, io lo so perché tu sei una che va a teatro, ma il teatro non è né obbligatorio né, cioè, se ne può probabilmente fare anche a meno, però chi lo scopre magari anche tardivamente poi si accorge che c'ha qualcosa di un po' speciale, perché è una zona un po' diversa in cui i linguaggi cambiano, in cui uno può proiettare i suoi pensieri anche altro. Per esempio, penso che molti, quando io faccio una cosa, magari sono lì ma pensano ad altro, però secondo me non è male lo stesso. Grazie a Gioiele Dix, buona domenica, e allora ci sentiamo presto quando sarete in tournée o quando l'avrete finita. Buona domenica, buona a tutti domenica. Voi, grazie. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Nessuna è perfetta. Bentornati, rieccoci a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E continuiamo a parlare del tema che ci siamo scelti oggi, come essere coach di se stessi. E certamente nello star bene con noi stessi conta l'aspetto fisico, certamente ha un suo peso. Ed è per questo che noi oggi abbiamo una Sunday Girl davvero speciale. Buona domenica Fiorella Donati, chirurgo plastico, titolare di una clinica chirurgica famosissima a Milano e autrice di Beauty Coach, appena arrivato in libreria per i tipi di Marsilio. Buona domenica. Buongiorno a tutti e buona domenica, e grazie per il Sunday Girl. Già sentirsi chiamare girl è qualcosa che ti dà una spinta verso l'alto, che siamo ci campo un mese. Siamo tutte girl qui a Nessuna è Perfetta. E proprio parlando di queste due, diciamo, i due pilastrini della nostra puntata di questa domenica, noi partiamo dal presupposto che nessuna è perfetta, e davvero non lo è, ma che stare bene con noi stessi e migliorarsi attraverso la possibilità di essere un po' coach noi stessi, di noi stessi, è un aiuto. Il libro che è appena stato pubblicato da Marsilio, Beauty Coach, che io ho letto, ha un sacco di buoni consigli, oltre che di spiegazioni su tante cose che talvolta suscitano dibattiti, come ricorrere al botulino. Quante volte lei si è sentita chiedere, dottoressa Donati, ma il botulino è un veleno, fa male? Lo pensiamo ancora tante volte, in tanti casi. Perché, sì, senz'altro, perché il botulino è comunque una molecola che può dare, ha dato delle malattie importanti, che appunto è il botulismo, ma non c'entra nulla con l'azione terapeutica che viene usata sia in medicina estetica ma soprattutto in neurologia. Io vorrei dire questo: viene usato da tantissimi anni questo farmaco per curare delle malattie importanti, molto fastidiose, come l'emicrania muscolotensiva, in quantità 100-200 volte superiore a quelle che noi iniettiamo per togliere, per migliorare le rughe della fronte. Quindi il farmaco di per sé è estremamente importante, non è nocivo, è un farmaco e quindi in quanto tale va usato da mani esperte. E il risultato, inoltre, se ben fatto, è spettacolare, perché non è tanto togliere le rughe, perché una ruga è bella, perché definisce comunque lo sguardo, definisce la nostra età, certo, non poi ci interessa. È la vita, togli, no? La stanchezza, sì, ma l'espressività, la bellezza, la nostra storia, però toglie quello sguardo a volte pesante, usiamo un termine, incavolato, sì, triste o accigliato, che talvolta toglie quella dolcezza e bellezza che è in noi e che però la vita ci porta a segnarci molto profondamente. Perché no? Ecco. Perché no? Però certo. Non è pericoloso, e soltanto i brutti risultati, ecco questo devo dirlo, che si vedono in giro non sono dovuti ad un cattivo botulino, ma a cattive mani che non lo sanno usare e quindi di conseguenza danno dei visi veramente cosiddetti mefistofelici, cioè questo sguardo diavolesco che anziché migliorare peggiorano. Ecco, nel suo libro Beauty Coach lei spiega perché ha voluto scriverlo. In pratica è la possibilità di capire quante cose si possono fare volendo migliorare il proprio aspetto, non necessariamente ricorrendo alla chirurgia estetica. Se le persone che ci stanno ascoltando, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, avessero voglia di capire come si può dare appunto una rinfrescata al proprio viso, al proprio corpo, ma senza fare cose traumatiche, lei, dottoressa Donati, cosa consiglierebbe? Ma io il libro, ecco, ci tengo a precisare, consta di due parti. Una prima parte dove c'è il racconto di come progettare la propria vita, di come aiutarsi, di come farcela, perché tutti abbiamo problemi, chi è più forte, chi è meno forte, chi è più ricco, meno ricco, però tutti possiamo progettare per darci quella forza quotidiana per farcela. Farcela significa realizzare una bellezza interiore, ovvero una progettualità, che poi si realizza in una bellezza esteriore, perché quando ti svegli al mattino e hai voglia di lavorare, hai voglia di andare a correre e non costa nulla, hai voglia di ben mangiare, di essere gentile con te e con gli altri, magicamente diventi bello anche all'esterno. Sembra una filosofia, sembrano parole, ma sono vere. Però la seconda parte c'è anche tutta una trattazione di come prevenire sia nel corpo che al viso tutte quelle brutture, perché sono brutture che il tempo ci regala, vuoi per l'invecchiamento, ma soprattutto talvolta la stanchezza, la quantità di ore di lavoro, i drammi che viviamo, le tragedie, i dolori che segnano il corpo e il viso. E c'è tutta una, è un saggio veramente, io dico, altamente scientifico, con un linguaggio semplice che arriva alla testa e al cuore, perché da una parte ti dà un po' di motivazione, anche perché il coach è quello che ha allenato per tanti anni, conosce l'animo dei suoi atleti, perché sono tutti atleti, e quindi motivarli per dare il massimo di sé. Ecco, io cerco di motivare le persone a dare il massimo di se stessi nella loro bellezza, che parte da un progetto interno, cioè di obiettivi, raggiungere degli obiettivi, e poi si realizza magicamente una bellezza anche esterna, perché se abbiamo voglia di amarci e di rispettarci, la mattina si fa un po' di attività fisica, una brioche, magari diciamo oggi che non è il caso, si segue un'alimentazione corretta, quindi ci sono consigli per come alimentarsi in modo corretto, per come fare uno sport in base all'età. Diamo un consiglio, dottoressa Donati, a una trentenne che appunto vuole cominciare a pensare bene a se stessa per i successivi 50-60 anni e vuole, però non sa da dove cominciare. Ecco. Sa, tutta questa idea del coach mi viene proprio da ragazze molto giovani che sono arrivate magari incinta dicendo che io comincio un percorso, lei mi deve accompagnare, lei mi dirà man mano cosa ha senso che io faccio o non faccio, in modo che arrivi a 60-70 anni bella ma me stessa. E che alle trentenni racconto questo: innanzitutto attività fisica, cercare di mantenere una buona alimentazione per non avere variazioni di peso. Le variazioni di peso in alto e in basso sono la cosa più devastante per il corpo femminile e maschile, perché a un certo punto la pelle, quando è stata portata su e giù nelle sue variazioni di volume, cosa accade? Non riesce più a seguirci, per cui alcune zone verso i 45-50 restano lì molli, ahimè, come ad esempio il collo, il contorno del viso, l'addome, il seno. Se invece si riuscisse a mantenere un peso non costante, perché è impossibile, perché la gioiosità della vita passa anche attraverso la convivialità del cibo, che è una cosa splendida, però variazioni di massimo 3 o 4 kg non oltre. Questo permette di lasciare alla pelle una buona elasticità. Questo è un consiglio. Se possibile non fumare, se possibile esporsi al sole ma in modo intelligente, perché il sole è uno dei maggiori pro-age, pro-invecchiamento. E l'altra cosa è cercare sempre di è ovvio l'alimentazione, sappiamo, tutti sappiamo, però certo, rendela fattuale. E poi un consiglio che do sempre è quello di tentare in tutti i modi, ci sono diversi modi, di aumentare il livello di endorfine. Cosa sono le endorfine? Sono una sorta di ormoni interni che noi produciamo. E come si fa a aumentarle, dottoressa? Sono gli ormoni della felicità, perché aumentano due o tre cose. Aumentano la potenza sessuale, aumentano la muscolatura, la progettualità mentale, la voglia di vivere, e danno un piacere, c'è una forza, una positività. E dove si trovano queste endorfine? Dove li compriamo? Li compriamo facendo l'amore con gioia, amando, facendo quello che facciamo, cioè avendo un'adrenalina, uno stress positivo, quindi lo sport, l'attività sessuale e poi tutto quello che ci permette di avere uno stress positivo, perché lo stress talvolta, anzi molto spesso, produce delle cose buone, però deve dare felicità, cioè mettersi in condizioni di avere, di vedere tutto quello che di buono c'è in un progetto, in una sciagura, in una cosa bella, c'è sempre del buono. Bisogna avere questo atteggiamento un po' misericordioso nei confronti di se stessi. Di se stessi. Infatti questa è una puntata che noi ci dedichiamo proprio nel senso di essere coach di noi stessi e volerci bene. Nell'ultimo minuto che ci resta, dottoressa Donati, nel libro che lei ha scritto, Beauty Coach, c'è un'ultima pagina con i consigli alle signore, diciamo, over 50, ne estragga uno di tutti il decalogo di Fiorella e lo regali alle nostre ascoltatrici che appunto hanno più di 50 anni o si avvicinano all'averne. Allora, over 50 sembra banale, siamo tutte nella stessa zattera, quindi parliamone anche della menopausa, che non è una malattia ma è un momento fisiologico che bisogna conoscere e affrontare. Quindi, ad esempio, chiedere al proprio ginecologo: posso prendere il DEA, che è un ormone assolutamente non aggressivo, che però dà uno start, dà la possibilità di vivere meglio, come ad esempio la ginnastica, cambiare tipo di attività fisica, non fare soltanto aerobica, ma soprattutto una ginnastica che permette di far crescere la grandezza dei muscoli, perché dai 50 a 60 in su i muscoli diventano sottilissimi e quindi perdiamo questa diciamo struttura che mantiene sullo scheletro, per cui diventiamo sottili, un po' curvi, senza sedere, senza muscoli. E poi tanti altri consigli, come ad esempio in questa fascia d'età attenzione al peso, perché è difficile poi perderlo, ma soprattutto non sottoporsi a diete drastiche, ma avere un tipo di alimentazione, lo chiamo allegro, mantenere il metabolismo allegro, cioè picchi in alto e in basso, che permette da una parte di avere un metabolismo basale alto, ma soprattutto permette di vivere bene e anche di mangiare, avendo dei periodi in cui invece si è in iperproteico, certo, oppure disintossicante. Si è un pochino più, diciamo, attenti a quello che si manda giù. Io ringrazio Fiorella Donati per tanti altri consigli e molte altre informazioni. Vi ricordo che il suo libro Beauty Coach è da pochissimo in libreria. Buona domenica, dottoressa Donati. Grazie e buona domenica a tutti. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, ed è il momento della lettera della settimana. Vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it, potete commentare su Twitter quello che ci diranno i nostri esperti tra pochi secondi usando l'hashtag Nessuna è perfetta, e potete ovviamente stare con noi anche su Facebook. Ecco che cosa ci scrivono oggi. Una camminata o una nuotata in piscina quando ho tempo, una dieta sana e senza rinunciare a troppe cose, un massaggio, un parrucchiere. A 47 anni ecco la ricetta della mia felicità. Mio marito mi prende in giro dicendo che potrei risparmiare, che a 47 anni potrei fare a meno almeno di un po' di queste cose. Frivole le definisce lui. Invece io penso che tutto questo mi faccia stare meglio. dovrei cercare di più? Paola. Sì, sì, forse sì, forse si può cercare anche di più, anche se mi sembra, Paola, che stia veramente sulla strada giusta. Ma quel di più può venire dai consigli di due esperti veramente straordinari che abbiamo con noi questa domenica, il professor Nicola Sorrentino, specialista in scienza dell'alimentazione e dietetica, direttore della Columbus Clinic Diet di Milano. Buonasera, anzi buongiorno, professor Sorrentino. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E Anna Inferrera, che è una straordinaria insegnante di yoga, che si è formata tra New York e Los Angeles, rappresenta in Italia la scuola Prana Vinyasa. Buona domenica, grazie. Anna. Buona domenica. Grazie Maria, buona domenica a voi, grazie per l'invito. Qualcuno potrebbe dire a Paola che fa già molto e che forse suo marito qualche ragione ce l'ha nel prenderla in giro, perché è lì che conta molto sulla felicità che può venire dal massaggio, dal parrucchiere, tutte cose che un tempo si sarebbe definito frivole. Ma bastano queste cose per far star bene o c'è bisogno di andare un po' dentro di sé? Comincerei dal professor Sorrentino. Quando ci si mette a dieta lo si fa perché non si sta bene con se stessi? Beh, io direi comunque che lo stile di vita, mangiare bene, prendersi cura di se stessi, farsi delle coccole, fa bene, e certamente anche l'alimentazione influisce tantissimo. Mangiare bene significa stare bene, il cosiddetto belli dentro, belli fuori. Si dice che lo specchio sia, cioè, che il viso sia lo specchio dell'anima, e io dico che invece è lo specchio anche del mangiare bene. Ci sono dei cibi che si fanno vedere subito sul viso di una persona, cioè li gonfiano immediatamente o procurano immediatamente un senso di malessere? Rispondo immediatamente sì. È l'alimento più semplice del mondo, cioè l'acqua. L'acqua fa stare bene. Ricordiamoci che l'acqua gioca un ruolo importante in tutta la nostra vita. Ricordiamoci che il cervello dell'85% è fatto di acqua, la pelle il 70%, i muscoli il 75% e così via. È sufficiente bere solamente 8-10 bicchieri di acqua al giorno, e gioca un ruolo talmente importante sia per l'elasticità e la compattezza della nostra pelle, ma anche per stare completa bene, anche per farci stare meno concentrati, per farci stare più concentrati. Basta una disidratazione solo dell'1% ed è poco, e avere quel malessere, quella stanchezza che molte volte noi non riusciamo a capire. Io mentre lei parla, professore, sto bevendo infatti subito, ci sto facendo un pochino di minerale naturale, non gasata, per carità. Una corretta idratazione è paragonabile a un atto cosmetico, è come mettersi una crema per prevenire la secchezza cutanea o ravvivare un colorito spento. E questa è semplicemente una delle tante piccole cose che può fare l'acqua. Se poi prendiamo anche un'acqua mirata significa, perché le acque dovete sapere che non hanno calorie ma sono ricche di sali minerali, quindi delle acque specifiche per ogni patologia. E un'acqua mirata cura ancora di più. E l'acqua è l'alimento, perché dovete sapere che l'acqua è stata introdotta nella piramide alimentare, una volta non era considerato un alimento, oggi invece è proprio un vero alimento, e ci sono delle dosi ben prescritte di quanta acqua dobbiamo bere al giorno. Anna Inferrera, cresce sempre di più il numero di chi pratica yoga, sono uomini e donne, con una lieve maggioranza di donne, almeno in Europa. Perché c'è bisogno? Perché c'è bisogno dello yoga? Anche adolescenti e bambini, se posso aggiungere. Sì. Quindi anche la consapevolezza del bisogno di questa modalità di ascolto, perché oltre che al movimento è proprio una modalità di ascolto, sta prendendo anche le fasce di adolescenti, e per fortuna, visto il momento storico che stiamo attraversando, e anche i bambini. Perché c'è bisogno di fare yoga? Che cos'è che ci fa star bene praticando? Quanto tempo abbiamo? Perché potremmo parlarne per settimane, mesi. Esatto, dunque. E fa bene perché a un livello fisico, fisiologico, apporta tutta una serie di benefici che vanno da una disintossicazione a livello di organi interni, rimettono in circolazione ossigeno, il sangue si purifica, lavoriamo sul sistema sanguigno linfatico, lavoriamo sulle ghiandole importantissime che regolano la produzione ormonale nel corpo, quindi svariati. Poi ci sono tantissime scuole di yoga, però quelle che al momento sono più praticate sono gli yoga un po' più dinamici, perché comunque nella nostra società trovare la capacità di andare dai 98 all'ora della nostra, sì, il ritmo nostro giornaliero a 2 all'ora, che sono magari gli yoga più meditativi, dove si pratica più respirazione eccetera, richiede una capacità di concentrazione molto elevata, non è per tutti, mentre un approccio più dinamico risulta consente proprio di arrivare più comprensibile, piano piano a quell'altro stadio, ma ne parleremo tra pochissimo di meditazione. Senta, professor Sorrentino, le capita di notare un cambiamento anche nella psicologia dei suoi pazienti quando perdono peso, diciamo sanamente peso, in seguito a una dieta? Beh, molte volte vengono proprio perché vogliono un cambiamento, molte volte vengono perché non piacciono più al proprio partner, perché non entrano più in quel lagone, in quel pantalone. È difficile che vengano per salute, sembra una cosa un po' strana, ma vengono più per l'aspetto estetico. Quindi un bisogno psicologico. C'è sempre una motivazione e molte volte cambia la vita. Potrei dire mille aneddoti di persone che hanno perso peso, e dico perso peso e non che stanno bene, perché è cambiata la loro vita, perché acquistano sicurezze, perché si confrontano in modo diverso. Oggi siamo in una società dove l'apparenza è molto importante, per cui molte volte le persone, 10, cioè 8 persone su 10, facciamo 7, va, 7 persone su 10 non vengono tanto perché hanno il colesterolo alto, perché hanno una patologia da curare, ma più per l'aspetto estetico, per cui c'è la motivazione, l'aspetto psicologico è molto importante. Ecco, nella idea di stare bene, di prendersi cura di sé, Anna in Ferrera, rientra anche l'arte di conoscersi e di ascoltarsi. Lei giustamente diceva all'inizio uno fa yoga, uno yoga più dinamico, poi però dopo la pratica di qualche anno si arriva a comprendere il valore della meditazione. Qualche tempo fa un settimanale francese, Le Point, ha dedicato addirittura la copertina ai vantaggi della meditazione. Ma che cos'è la meditazione e perché fa bene? E dunque, anche sulla meditazione si potrebbe parlare a lungo. Per alcune persone già dopo la prima pratica di yoga è consentito di accedere, trovare proprio una porta di entrata verso il sé superiore, così viene chiamato, quindi un ascolto indisturbato di quella che è la nostra essenza, la nostra natura, e quindi da lì quella persona subito riesce a così a praticare in maniera profonda e anche, come dire, avanzata. Alcune persone invece ci mettono un po' più tempo, però è inevitabile. Il grande dono dello yoga, della meditazione, della respirazione, che ci porta in ascolto di noi, quindi ci fa fermare, ci riesce a farci entrare nel famoso qui e ora di cui tanto si parla, e grazie alla meditazione riusciamo a diventare degli osservatori della monkey mind, di quella mente scimmia, così viene definita nello yoga, quindi la mente che salta da pensiero a pensiero. E è un po' folle pensare di riuscire a fermare quella natura, perché la nostra natura, l'uomo è fatto così, la mente umana è strutturata in questo modo. L'arte della meditazione ci regala l'opportunità di poter allungare gli spazi fra un pensiero e l'altro, quindi rimanere in quel void, in quel vuoto, certo, che è uno stato di sottensione e che ci porta veramente, è come ricaricarci, come mettere la spina in una grande fonte di luce. È un carica batterie umane, la meditazione. Assolutamente sì, quindi diminuisce il livello di stress, ci porta appunto a imparare a non reagire alla vita, ma ad osservarla quando è necessario, in maniera anche distaccata, in modo tale che tutto ciò con cui veniamo presentati quotidianamente, che chiamiamo la nostra vita, viene vissuta anche come un'opportunità, quindi anche i momenti di difficoltà, certo. Senza, che non vuol dire non essere reattivi assolutamente, però ma significa vuol dire riuscire ad attingere a quella fonte di verità e reagire meglio anche alle frustrazioni. In chiusura, professor Sorrentino, se noi volessimo identificare un alimento che lei, per la sua esperienza di tanti decenni ormai, che lei identifica come qualcosa che generalmente fa male un po' a tutti. Adesso c'è un po' la fissazione del glutine, ma secondo me è più una insinuazione del marketing di certi alimenti che non una realtà. Qual è invece, secondo lei, un alimento che normalmente andrebbe assunto con cautela e di cui invece magari facciamo grande uso tutti? Beh, io non smetterò mai di dire che non è la qualità, ma è la quantità che fa male. Anche i veleni si usano per curare in dosi microscopiche, per cui non c'è niente che fa male, bisogna sapere cosa mangiare in qualsiasi momento. E poi l'alimento che tutti potrebbero dire che fino a poco tempo fa dicevano che faceva male era il cioccolato. Oggi faccio un esempio, il cioccolato fondente addirittura si può mangiare normalmente. La pasta tutti la demonizzano, invece in realtà la pasta è fondamentale sia per dimagrire sia per stare bene. Certamente uno potrebbe dire la frittura fa male, però anche la frittura presa nel giusto modo e fatta nel modo corretto non fa male, per cui ripeto, non è la qualità ma la quantità. Professore, qui dallo studio vedo esultare dall'altra parte del vetro, quindi ci ha dato veramente un buon avvio verso il weekend, del quale ci consentiremo allora in questa domenica un fritto in più. Senta, io ringrazio Nicola Sorrentino, ringrazio Anna Inferrera e buona domenica a voi. Grazie, anche grazie. A voi. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci per l'ultimo blocco di Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Essere noi i coach di noi stessi. Come offrirci valore, valore che è ritagliato su misura di noi stessi. Nessuno ci conosce meglio di quanto ci possiamo conoscere. Come dicevo anche all'inizio, l'argomento non è per nulla di superficie, un argomento di sostanza nel mondo del lavoro, e possiamo dirlo a ragione dopo diciamo alcuni decenni in cui si è trasmesso il messaggio che l'abito fa il monaco e anche il make up. Di questo vorrei parlare e capire col coach di questa settimana. Buona domenica Roberto Dincau, che è il fondatore di Lange Partners, coach e cacciatore. Assolutamente. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sicuramente la gradevolezza complessiva e il modo di porsi è uno dei fattori. Oggi poi io dico sempre che essere brutti non è quasi più neanche una possibilità. No, ci sono miliardi di modi per esatto. Diventare belli. Guarda, non faccio nomi. Dal vestirsi al truccarsi in modo corretto, esatto, senza, non è così complicato. Esattamente, senza cadere fino nella chirurgia plastica, insomma, ma credo serve. Un po', non serve. Però, come dire, ecco, io dico sempre, porsi in modo gradevole è come porre in fondo un biglietto da visita sgualcito e stampato in velocità alle macchinette, piuttosto che invece un biglietto da visita ben curato, ben stampato, con i colori giusti, con una bella carta. È chiaro che fa tutto un altro effetto. Bisognerebbe studiare l'effetto, non bellezza pura, ma l'effetto sicurezza e autostima, perché quello che a mio parere si prova, si ottiene con una bellezza, con una cura di sé o con un buono standing, perché io poi alla fine lo metto tutto sommato allo stesso livello, è il fatto che si ha maggiore sicurezza di sé, si ha maggiore autostima e quindi questa cosa viene assolutamente percepita nel mondo del lavoro e porta poi a fare che cosa? A darci posizioni più responsabilità, a darci dei compiti più importanti. Cioè non è tanto, a mio parere, l'effetto bellezza pura quanto l'impatto che questa cosa ha sulla nostra autopercezione. Questo gli altri lo percepiscono molto, nel senso che una persona sicura di sé, una persona assertiva, una persona che si pone in maniera sciolta, è sicuramente una persona che viene valutata dal punto di vista proprio delle competenze meglio rispetto a una persona come dire che è più timida, più, che si tiene più indietro. E quindi io direi che l'effetto netto potrebbe nascere da questo. Questa è la mia idea, perlomeno. Costa meno forse pettinarsi un pochino di più al mattino, arrivare 5 minuti prima davanti allo specchio, piuttosto che ingaggiare una battaglia. Ci sono questioni più di sostanza su cui fare. Ci sono questioni più di sostanza, così come esiste il cliché della bella e inetta, della super, della, no, della buonona inetta, esiste un po' anche un cliché del io punto solo su quello che dico e che faccio, sui meriti, e del look me ne frego completamente. Quindi anche questo, secondo me, è un anti-cliché che io trovo si possa superare. I cliché sono fatti per essere superati, per essere messi da parte. C'è spesso questa cosa qua, esiste, così come noi maschi abbiamo l'idea, adesso ti farò ridere, che il palestrato fisicato sia un inetto, e non è assolutamente vero. Così esiste anche nelle donne, c'è a volte l'idea che così quella super curata, boccolosa, sia un po' lì come una bella statuina inutile. Non è assolutamente... Sono i pregiudizi preventivi. E rispetto a questi che si fa, Roberto D'Incau? Rispetto ai pregiudizi che tutti noi inconsapevolmente alimentiamo. Beh, io trovo che questa situazione, questa lettera di questa lettrice sia utilissima, perché è un'occasione di riflessione. Adesso, senza andare al Kaloska e Agathos, no, della cultura greca, bello e buono, bello e bravo, perché insomma non ci crediamo, però insomma questa battaglia, mi sembra che quotidianamente questa battaglia della sciattezza sia forse una battaglia veramente inutile, e stando bene poi dai risultati, collabori bene, cresci eccetera, da un lato. Grazie al nostro coach di questa domenica, grazie Roberto D'Incau, grazie a voi che ci avete seguito, e adesso relax. Il multitasking, lo sapete, è una fregatura.